madre! Figlio! Son morto! Calmati, figlio mio! Son morto, dico! Flemma, flemma, e poi flemma! Il fatto è serio e pensarci conviene. Ma guarda un poco che ancor non sai di chi si prende gioco. Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi raccolse. Ever, ma questo è più di porgi un dritto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai che in effetto... Allerta dunque, il loco del congresso sa dove è stabilito. Dove vai, figlio mio? A vendicar tutti i mariti. Addio!